signore e signori, Gigi D'Agostino. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We'll remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever you and me. You will always keep flying high in the sky of love. Don't you think it's time you started doing what we all dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie.

spazio. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. Danziamo l'amore. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Intendo dire è tutto quello che desidero raccontare musicalmente. Quando dico altre storie, intendo dire quello che voglio dire, ma che non riesco a dire. Cioè, dai un poco sta cassa. se volete scrivermi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Non giochiamo. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento. Passo lento ma violento e ne passa lo sgomento. Yo, yo, yo, check the sound, bomb the bass, here we go. Yo, cammino di Gigi D'Agostino. Si sta propagando a macchia d'olio. Si sta propagando a macchia d'olio. Lento, violento e altre storie. Si sta propagando a macchia d'olio. Danziamo l'amore. Danziamo l'amore. Mano sul cuore. Danziamo l'amore. È un gesto normale che contro ogni male. Facciamo l'amore. Vogliamo l'amore. Troviamo tempesta. Pull the ring.

di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. We'll be right back.